Benvenuti a Dedicato. Oh, anche questa settimana devo dire che parliamo di un argomento interessante, perlomeno per noi, perché parliamo della festa della lingua madre. Allora, è una festa che viene festeggiata ogni anno il 21 di febbraio, che è la giornata internazionale della lingua madre. Noi abbiamo creato una festa in quartiere Navile, quindi Bolognina e Corticella, a Bologna. Abbiamo deciso di creare proprio la festa della lingua madre, che è un momento dedicato a tutte le famiglie. Cioè, in questa occasione i bambini potranno condividere simboli, tradizioni, costumi e storie legate alla cultura del proprio paese. Le famiglie si avvicinano, i genitori si parlano, vediamo dei nonni che portano il loro contributo. Insomma, tutto dalla propria comunità o regione di provenienza, insomma, perché parliamo anche poi delle regioni italiane, oltre che dei paesi dal mondo. È un momento di incontro, di scambio, di conoscenza reciproca che favorisce la nascita di nuove relazioni, quindi veramente una cosa molto interessante nel nostro quartiere che, come vi abbiamo già raccontato in passato, è coloratissimo e noi ci rivendichiamo il colore del nostro quartiere. È un'idea quella della festa della lingua madre, è nata come un'idea da pochi genitori del comitato genitori dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna, che è un degli istituti comprensivi del quartiere Navile. Sono quattro nel quartiere Navile, quindi tante scuole, tanti bambini e tanti ragazzi. La prima edizione di questa festa è nata 2 anni fa, quest'anno è stata fatta la terza edizione. È stata veramente sempre partecipatissima, con contenuti da tutti i paesi di provenienza: cultura, cucina, danza, musica, arte, scultura, disegni, poesie, favole, giochi e tanto altro. Quindi è un pomeriggio insieme per conoscersi meglio. Allora, quest'anno c'è stata una piccola evoluzione, perché le prime 2 edizioni della Festa della Lingua Madre hanno visto appunto presenti il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 15 e la Casa di Quartiere Croce Coperta, che ci ha ospitato, e non solo, insomma, si sono messi in campo i volontari della Casa di Quartiere e hanno fatto veramente tanto, sia a livello organizzativo che a livello pratico proprio durante la festa. Quest'anno abbiamo coinvolto anche il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 5, che è uno degli altri 3 comitati genitori che ci sono in quartiere. L'Istituto Comprensivo 5 va a coprire un po' più la zona proprio della Bolognina, quindi sono subito dopo il centro di Bologna c'è l'Istituto Comprensivo 5, subito dopo l'Istituto Comprensivo 5 c'è il 15, quindi sono, diciamo, vicini di casa. Quest'anno abbiamo intervistato chi la Festa della Lingua Madre la realizza praticamente, quindi le persone che sono venute a portare i loro contenuti. Iniziamo ad ascoltare qualcosa di loro, ma anche la loro musica, perché ci hanno suggerito dei brani musicali del loro paese di provenienza, e quindi andiamo ad ascoltare anche le loro musiche. Questo è il banchetto dell'Algeria. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Amel, ho 33 anni e vengo dall'Algeria, della Kabilia in particolare, nord Algeria sul mare. Ok, ci vuoi raccontare qualcosa del tuo paese di provenienza? Allora, intanto, per chi non sa dov'è, l'Algeria sta tra il Marocco e la Tunisia, il più grande paese in Africa e il 10° al mondo in superficie. E noi siamo stati una provincia romana per tanti secoli, poi insomma un paese che ha subito comunque varie invasioni arabe, francesi, ottomane, però noi come berberi, popolo originario e etnico dell'Algeria, abbiamo conservato la cultura, la tradizione, il cibo, la lingua, la scrittura, come vedi qua, e tutto quanto, perché ci sposiamo solo tra di noi. E riguardo questo banchetto che ci avete portato alla Festa della Lingua Madre, c'è un po' di tutto, no, della vostra cultura? Cultura. Sì. Dalla scrittura al cibo, agli ustensili, quello che usiamo in cucina, fatti di terracotta, il couscous, che è un piatto comunque patrimonio UNESCO, proprietario dall'Algeria, Tunisia, Marocco e Libia, i primi strumenti li hanno trovati ad Akbou, dove sono nata io, in Kabilia, quindi 2000 anni fa, è il cibo tipico dei berberi del Nord Africa. Poi abbiamo il burek, è una varietà immensa, infinita di dolci per tutti i gusti, tutti i palati. E invece i vostri abiti, quello che hai anche tu addosso, che non si può vedere in radio, però è meraviglioso, sono coloratissimi e bellissimi, sono vostri abiti tipici, immagino, tradizionali. Esatto. Sì, esatto, noi abbiamo questi abiti fatti di almeno 5-6 colori, molto accesi, giustamente, e mettiamo sopra una cosa che si chiama il fotà, che poi una volta, quando andavano a raccogliere le oliva oppure la legna nella foresta, la usavano per mettere dentro la legna e la portavano sulla spalla a casa. E questi gioielli sono fatti di argento e sono anche colorati con delle pietre un po' particolari. Sì, sì, perché hai una specie di coroncina in testa meravigliosa. Allora, questo è Vagus. Questi sono gioielli Imchtenen. La nostra scrittura si chiama Tifinagh, è questa qua, è simbolica, è un po' una parente, una mezza cugina dell'antico, la scrittura egiziana antica. Si trova anche nel Tassi di Nager, che è un patrimonio anche dell'UNESCO, nel sud dell'Algeria. Sono scritte che i scientifici, insomma, hanno calcolato che hanno tra i 15 e i 20 mila anni. E da lì Tifina vuol dire la nostra trovata nell'antico berbero. Grazie Mel. Grazie a voi. Ciao. Una parolina nella mia lingua, un augurio a tutti. Serema un squesem ges, squesem anen, squesem mervoh, hunuk squesulen un, un difkar bin el khera, un difkar bin il tmenim, mestiz merth. Ciao, allora qui alla festa della lingua madre sei con il banchetto della Russia, giusto? Sì, giusto. Ok, come ti chiami? Mi chiamo Anastasia, sono oggi qui con mie amiche, anche loro russe, Svetlana e Alla. Siamo preparati, abbiamo preparato insalata russa, crepes, anche qualche torta, il tè russo. Vedo infatti un sacco di cose tradizionali vostre, anche le matriosche, un sacco di cose. Ci vuoi raccontare qualcosa del tuo paese? Io nata a Mosca, proprio capitale di Russia, che è troppo grande, però pieno di foreste, bello, un po' caotico, però pieno di tutte, comode per vivere. Ok, e la Russia è un paese esteso, grandissimo, quindi tu l'hai girato, hai avuto modo di vedere un po' anche le differenze, sì, magari tra le città e fuori, sì, città? Sì, ho già visto qualche paese vicino, quasi, circa 600 km da Mosca. E invece questi lontano, come nord, belli, non ho ancora visto, voglio tanto vedere. Ok, sei da tanto tempo in Italia? No, sono quasi 4 anni qui. Bravissimo. Ma parli benissimo l'italiano. Grazie. Brava. Sto ancora imparando ogni giorno per migliorare. Certo. Però siamo uniti e riusciamo a vivere tutti insieme. Sono piene di religioni diverse, però siamo uniti. Solo questo. Okay, quindi nonostante le differenze religiose o culturali, voi riuscite comunque a mantenere... Sì, sì, una società così... Ci racconti qualcosa, Anastasia, sulla matrioska, che tutti noi conosciamo perché ormai è arrivata anche qui da noi. Sì, un gioco tipico che fanno dal legno. Matrioska originale, devono avere 7 bambole, mettono dentro e anche fanno al mano proprio tutti questi giochi che non posso comprare da industrie, è proprio al mano, una cosa bella. Anche non è troppo caro perché puoi trovare da 5 euro. Ok, grazie. Prego. Ciao. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березняка, для меня святая Русь, для других занозника. Матушка земля, белая березняка, для меня святая Русь, для других занозника. Матушка земля. siamo qui con Betty, che è sempre alla festa della lingua madre, che è dell'associazione Selam. Allora, ciao Betty, raccontaci qualcosa. Intanto, qual è il vostro luogo di provenienza? Allora, noi di origine siamo eritrei, di coppie eritree o coppie miste, o anche coppie tra eritrei e etiopi, quindi tecnicamente l'etnia è Habesha. La nostra associazione nasce per insegnare la madrelingua tigrinya. Ci incontriamo praticamente per passare la madrelingua ai nostri figli, perché è importante conoscere le proprie radici per determinare il proprio presente, nonché molto importante anche per il futuro. Io ho visto sul palco poco fa i vostri bimbi e ragazzi che hanno cantato una canzone in lingua madre, e la cosa che mi ha stupito è come i piccolini stessero tranquillamente insieme ai più grandi, che sono adolescenti, quindi sono grandi, e voi adulti vi relazionaste a loro con tutta la serenità. Cioè, in tanti momenti delle nostre vite noi vediamo i nostri adolescenti che scappano, no? I ragazzi fanno le loro vite, non mantengono questo contatto con i percorsi di tradizione, di cultura, magari del loro paese di provenienza, o non parlano più la lingua madre con tanta passione, come invece ho visto fare ai vostri ragazzi. È molto bella questa cosa. È un qualcosa che è nato nel tempo, non è venuto così. Non è un risultato così, stato così immediato. Noi ci vediamo praticamente tutti i sabati, c'è una continuità importante. Noi ci vediamo dalla chiesa di San Girolamo, qui proprio nella Bolognina, dove la presenza di eritrei e etiopi e comunque di provenienza Habesha ce ne sono tantissimi. Il fatto che i nostri ragazzi, è vero, hanno cantato nella nostra madrelingua, però la loro presenza, il loro incontro settimanale, e quando si incontrano sono loro, la loro personalità esce fuori, non sono il ragazzo riccio, il ragazzo moro, il ragazzo o la ragazza riccia, ecco. Quindi la continuità fa tanto ed è stata un duro lavoro, diciamo. Ci vuoi raccontare qualcosa del vostro paese di provenienza, quindi dell'Eritrea, e quindi qualche tradizione, momenti culturali, qualche cosa che magari noi in Italia non siamo abituati a conoscere o a sapere, ecco, a capire? Io vi racconto una cosa che mi emoziona tantissimo, che è la cerimonia del caffè. Il caffè qua in Italia, anch'io stessa, siamo abituati a prenderlo corretto, lungo, basso, alto, però tecnicamente dura un minuto, due, non di più. La cerimonia del caffè in Eritrea può durare da un'ora, due, tre, quattro ore, ed è anche lì un rito. La ritualità torna sempre, ed è una cosa molto che porta veramente unione alla comunità e alla famiglia. Sapere che ad esempio la domenica mattina, finiti i lavori di casa, tornati dalla chiesa, dopo il pranzo la mamma si mette al centro e c'è la cerimonia del caffè che inizia, e siamo tutti coinvolti in quella festa. Casi diversi invece quando nella cerimonia sono ammesse solo le donne. E questa cosa l'ho capita solo molto tardi, nel senso che quando ero piccola c'erano momenti della cerimonia del caffè che noi piccoli non potevamo partecipare, ed era il momento in cui le donne, esse che siano mamme, non mamme, con tutti i loro problemi, si sedevano in questo cerchio rotondo e si psicanalizzavano. E questa è la cosa che a me, no, cioè prima andavo orgogliosa, dicevo ma in Eritrea non si va dallo psicologo. No, addirittura ci vanno ogni giorno, perché è il gruppo, la comunità, l'unione, il rito. E non devono smettere di lavorare, vero? Ho detto 3-4 ore, te dice quando andate a lavorare, essendo spesso e volentieri delle casalinghe, si riuniscono nel centro del cortile e ognuna di loro porta avanti il suo lavoro, chi cucina, chi lava, chi stira, però sono lì per insieme. Fare insieme. Che meraviglia. È una roba meravigliosa, veramente. Grazie Betty. Grazie di cuore per aver creduto e organizzato anche questi eventi, perché noi siamo ospiti in questo evento, c'è qualcuno che ci ha lavorato, noi vogliamo ringraziarli, e noi siamo alla seconda, terza parte edizione, esatto, noi partecipiamo alla terza edizione, come ce lo chiedono, noi siamo qua, tanto, grandi, sì. Grandi, e continuate, siamo degli ottimi alleati. Grazie. قدمي انجيزي كوك وانت حي لني سعرهم براي سعرهم تسفى يولك في تسفى يوحي لي دقاقي نتسقلي كساب زمر لي يتعامل سم في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تريف في الشغطة عملي في الشغطة عملي يدعم حساب في الشغطة عملي في الشغطة عملي عيح للين كساب زي سمر لين في الشغطة عملي سعرهم براي سعرني مساقمي نبراك ريدني نمار اركو تقعنا زي بلو مساقفو هتصيناني عيالي نفسي الرقاقي ايو نفسي لك وعام براي كون كون عددي تتصباي كون كون تمتواتي تقعنا يغلقان واني النقوة ميني زحاسك وحيز السمسكيني في الشغطة عملي كل تيري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يدعم يحسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي هاي حلالين كساب زي سمر اللي في الشغطة عملي سعر مبراي سعر النقصة قمي. Abbiamo ascoltato un meraviglioso brano suggerito da Betty, direttamente dall'Eritrea, quindi uno dei vostri brani che ci accompagna ancora in questa chiacchiera, e ti chiedo però un po' i contenuti, no, della vostra associazione, raccontaci un attimo. Siete apolitici, però per la libertà. Per la libertà del pensiero, la libertà di tutto, noi portiamo i nostri ragazzi nei giochi antirazzisti, noi li portiamo a parlare, a scoprirsi chi sono, di dove sono, che devono comunque andare, qualcuno dei nostri inizierà a compiere 18 anni, che il voto non è un diritto acquisito a gratis, è un dovere, in quanto tale devono in qualche modo partecipare alla vita politica e sociale del paese dove vivono. Anche perché gli avrete raccontato invece del appunto paese di provenienza, quindi in Eritrea, della situazione politica che c'è là, e immagino che insomma vedere e vivere in Italia tecnicamente delle situazioni è importante anche passare loro, no? Appunto come dicevi tu, che il diritto di voto non è arrivato per caso, che è paragonato al vostro paese di provenienza, è ancora più importante raccontarlo, no? Assolutamente, sapere e sentire che ci sono dei giovani che ti dicono io non voto, intanto sono tutti dei ladri, a me stringe il cuore. Il diritto del voto, veramente, ci sono paesi nel mondo dove veramente è negato da sempre in qualche modo, e anche loro quando arrivano ti dicono ma io poi voto non cambia niente. Assolutamente, noi siamo in quanto individui, abbiamo il dovere di informarci ed occuparci del territorio dove viviamo. I nostri ragazzi, come dicevo prima, sono tutti nati, cresciuti in Italia, sono italiani di primo livello, ecco, non sono la seconda generazione, sono una nuova generazione, e questa nuova generazione deve essere nuova anche nelle ideologie, nel senso che non deve seguire il gregge che dice io non voto. Loro il diritto del voto ce l'hanno, e che deve essere un dovere di voto, ecco. Quindi c'è anche questo dietro, un lavoro quotidiano, li portiamo nei musei, li portiamo nei giochi antirazzisti, li portiamo, poi hanno anche loro delle loro idee, ma qui è sempre la continuità, no, di cui dicevamo, tutti i sabati non devi segnare la presenza, oggi vengo o non vengo. Tutti i sabati siamo lì, chi c'ha voglia, chi c'ha tempo, chi non ha tempo nessun problema, sa che ci troverà il prossimo sabato, e siamo tutti interscambiabili, non c'è nessuno che... Nessuno fondamentale, ma tutti importantissimi. Importantissimi, dal Bravi. Più piccolo al più grande. Bravissimi, grazie. Grazie. Allora, ciao, siamo al banchetto dell'Egitto, giusto? Ciao, sì, meraviglioso. Grazie, ciao, come grazie. Ti chiami? Mi chiamo Ruby. Oggi siamo qua per festeggiamo la giornata della lingua madre, diciamo, dove ci sono tutti diversi culture. è una cosa proprio bella, meravigliosa di partecipare a una festa come questa. Quindi abbiamo fatto oggi un banchetto egiziano dove ci trova tanti tipi di mangiare, diciamo, salato e dolci, tutti i piatti, diciamo, tipici dell'Egitto. Pure anche abbiamo altre cose, tipo disegni, scrittura araba, proprio tipo maglietta cotoni dove c'è il disegno dell'Egitto. Ok, grazie. Di niente. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a voi. Come ti chiami? Mi chiamo Rihem. Come mai sei alla festa della lingua madre? Mi piace molto l'Arabic calligrafia, la mia base lingue. Io artista e faccio tutte le calligrafie in arabo e anche oggi in egiziano, anche storica. Fantastico, quindi tu praticamente disegni utilizzando le calligrafie arabe e anche egiziano antico. Sì. Bravissima. Sì, e con fiori, decorazione. Sono egiziana, abito qui adesso. Ok, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Malak. E sei alla festa della lingua madre con il banchetto del Marocco. Hai voglia di raccontarci qualcosa del vostro paese, delle vostre tradizioni, cibo, costumi? C'è la tua mamma che è vestita in costume anche, tu no, ma lei sì. Voi avete un sacco di cibo sul vostro banchetto, un sacco di oggetti anche. Sì, oggi siamo qui in rappresentanza del nostro paese, del Marocco, e siamo qui con un po' di cose, il tè alla menta, qualche dolce, il bagrir, il msemen e anche il couscous. Abbiamo portato anche un po' di roba tradizionale del Marocco, un po', non lo so, un po' di argilla per la pelle, un po' di olio di argan, dei rossetti naturali, quindi siamo qui in rappresentanza del Marocco. Ok, l'argilla, perché cosa fate con l'argilla? Allora, è un'argilla particolare, è blu e viene mischiata a delle maschere per i capelli o per il corpo. Diciamo che viene aggiunta un po' a dei rimedi naturali. Ok, e la tua mamma che è vestita con questo costume, che costume è? Tradizionale? Sì, è un costume tradizionale, è un vestito e si chiama jilleba. È infatti tradizionale del Marocco e si mette alle feste, a volte anche a matrimoni, ma dipende, normalmente a feste, a eventi importanti. Ne abbiamo molte varianti, e però questa è, diciamo, quella più importante, sì, tradizionale. Sì. Di origine berbera, i primi fondatori sono stati i berberi, successivamente sono venuti gli arabi, che siamo noi, però poi gli arabi hanno poi diverse etnie, per esempio la mia generazione, il mio albero genealogico arriva dall'Iran, okay, di origine. Alla fine dal Medio Oriente siamo stati tutti sparsi con la colonizzazione, che sono arrivati in Marocco e sono venuti questi più etnie. È uno dei paesi più antichi del Medioevo, dove c'è una sua storia, una sua cultura. Il Marocco si differenzia tantissimo dal nord al sud, dalle montagne al mare al deserto, un clima mite d'inverno, d'estate molto caldo, un bel paese da scoprire comunque, perché varia tantissimo, è ricco di tradizioni, di cultura, di paesaggi. Grazie. Prego. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ci presenti un attimo la vostra associazione, Noi con l'Africa, e perché insomma siete presenti qui alla festa della lingua madre? Allora, Noi con l'Africa è un'associazione promozione sociale di Bologna, nata dall'idea di due amiche di unire le forze per raccogliere fondi a progetti a loro cari, uno in Zambia e uno in Gambia. Nello specifico oggi si raccoglie per un progetto in Zambia, Cicetechero Youth Project della Papa Giovanni XXIII, dove una delle due volontarie, Silvia Finelli, è stata per tanti anni e da quando è tornata in Italia continua ad aiutarli come può, raccogliendo fondi per loro. Il progetto si occupa di supportare ragazzi dai 6 ai 18-20 anni in tutta la fase critica potrebbero essere ragazzi vulnerabili, orfani di strada, gli aiutano nel percorso scolastico. C'è una parte che risiede proprio al progetto, invece una parte importante si ricerca di ricollegarli e di farli vivere in famiglia. Chi non va a scuola ha possibilità lavorative, gli viene insegnato, ci sono dei corsi di falegnameria, di meccanica e di agricoltura. L'agricoltura è una parte molto importante per il progetto perché si cerca di autosostenersi anche con i prodotti. L'anno scorso, nello specifico, abbiamo fatto anche una raccolta fondi per portare giù in Zambia un trattore e una seminatrice nuovi tramite container. Grazie a tutti. Grazie. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, direttamente dalla festa della lingua madre. Quindi grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa festa, che hanno partecipato, che hanno portato dei contenuti. Grazie anche ai docenti dell'Istituto Comprensivo 5 e 15, Scuole Federzoni e Croce Coperta. Ci tengo a citarle perché sono docenti veramente che si sono spesi e messi in campo per partecipare con i lavori delle loro classi, quindi chi ha portato dei racconti, chi ha portato un teatro kamishibai, chi ha portato dei disegni, dei cartelloni. Veramente grazie a tutti i docenti, a tutti i bambini e ragazzi delle classi che hanno partecipato, a tutte le famiglie e alla casa di quartiere Croce Coperta che ci sostiene da sempre. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato.